24, i gialli della storia. Nella Portella tutti gli anni si andava. Stavamo facendo una festa del lavoro. Una festa che per 20 anni è stata cancellata. Venivano qui tutti i lavoratori, Piana, San Giuseppe, San Cipirello, a festeggiare questo 1° maggio. Io sento la musica, mi metto nel balcone, mi metto a piangere. E dicevano, state andando cantando e dovete tornare piangendo. Compagni, amici lavoratori, ogni 1° maggio, fascismo non fascismo. Ta ta ta ta ta ta ta. Non piangete, non gridate che è l'augurio della festa, ma che festa! Mi sono impaurito così molto che io credevo che loro ci dovevano cerchiare, ammazzarli a tutti. I primi colpi la mamma l'hanno preso. Io guardavo là sopra dove c'è quella pietra, là c'erano quelli che sparavano, io li vedevo, erano in 5, quelli che vedevo io erano in 5. Lei non ha detto una parola, soltanto che mi ha guardato così, ci cadono le lacrime e fa così, con la testa, non ha detto neanche una parola. E il figlio dice, papà, dice, il cavallo, dice, lascia stare il cavallo, dice, e la madre è morta, dice, lascia stare. Che è stato Giuliano siamo sicuri, ma i mandanti ancora non li sappiamo. Giovedì 1 maggio del 47, vicino a Palermo, mentre è in corso la festa del lavoro, alcuni banditi sparano sulla folla e uccidono 12 persone, ferendone più di 30. È la strage di Portella della Ginestra, per molti il primo grande mistero dell'Italia repubblicana. Se infatti è certo che a sparare siano stati Salvatore Giuliano e la sua banda, quello che rimane ancora ignoto è il movente. Così come chi abbia ordinato e chi abbia coperto le indagini successive. Ma in questo mistero, fatto di inquinamenti, depistaggi, interrogativi irrisolti, c'è comunque un protagonista, Salvatore Giuliano, il leggendario bandito di Montelepre, punto di riferimento del dopoguerra criminale in Sicilia. E allora questa storia che vogliamo raccontare oggi a Mix 24 parte dallo sbarco degli alleati in Sicilia. Tutto ha inizio il 9 luglio 1943. Le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia. Per gli abitanti dell'isola, il dopoguerra è iniziato. I viveri scarseggiano. Mancano scarpe, abiti, medicinali, sigarette. È una Sicilia povera e disperata. Tempo di guerra. Mancava tutto, di giorno il pane, di notte le cose che dovevamo mettere perché non c'era niente. La vita nostra era troppo triste perché c'era la fame, e noi mangiavamo fave vendute, e se c'era fame la mangiavamo con tutti i sforzi fame. Le autorità razionano i beni di prima necessità. Ma con quel minimo non è possibile vivere. Chi produce il frumento ne consegna agli ammassi di Stato solo una parte. Il resto lo vende al mercato nero, di contrabbando. Lo fanno tutti, anche Salvatore Giuliano. Figlio di immigrati negli Stati Uniti, Salvatore Giuliano è un giovane contadino di Montelepre, alle porte di Palermo. Il mio fratello si trovò a andare per un po' di frumento per sfamare la propria famiglia, si è imbattuto in un fiume chiamato Iato con i carabinieri, ci hanno intimato l'arte e dopo averci levato il frumento, insomma, lo pregavano di portarlo al presidio americano. I carabinieri gli hanno già sequestrato il grano più di una volta, ma non è bastato. Giuliano è un ragazzo testardo, per sfamare la sua famiglia, è disposto a tutto. 3 settembre 1943, Salvatore Giuliano scambia qualche chilo di frumento per una pistola. Ha 21 anni. Ma Giuliano non è il solo. A quel tempo quasi tutti i ragazzi di Montelepre fanno il mercato nero. Anche Gaspare Pisciotta, più volte fermato dalla polizia. Mi manca via 18 anni, 19 anni. Dice, io mi ne chiedo soldato. Ma come ti ne chiedo soldato, ci sei madre? No, che io mi scanto di sbirri, mi vengono a pigliare e mi portano cacciato. Le corna ci dissero che fa parte del volontario. Arrivano a settore Messina e ho pigliato prigioniero e sono portato in Germania. Sono portato in Germania, sì, i tedeschi. E stesse 2 anni prigionieri in Germania. No, non abbiamo notizie, se era morto, se... niente, completamente. Mentre Gaspare Pisciotta è prigioniero, la vita di Salvatore Giuliano sta per cambiare. Quando Giuliano rifiuta di consegnare il frumento ai carabinieri, scoppia un conflitto a fuoco. Giuliano, da contrabbandiere, diventa latitante. Mio fratello non aveva la minima intenzione di uccidere quel carabiniere. Mentre che corria, scappava, ci cariva la giacca. La giacca c'era la tessera. Perché non c'era la tessera. Perciò Ido dice, la giacca si ha pigliato. La tessera è da dentro, io dentro non ci vengo. Da allora in poi Ido io poi. A Monreale chi gli ha scacciato, chi è a Monreale. Oh. Si dice la banda. E è successo questo. Una volta liberi, i Picciotti raggiungono Salvatore Giuliano per formare il primo nucleo della banda. Sulle montagne li raggiunge anche Gaspare Pisciotta, tornato dalla prigionia in Germania. Diventerà il braccio destro del bandito Giuliano. Furti di bestiame, rapine, sequestri, ricatti, omicidi. È questa l'attività della banda Giuliano. Ma è l'attività anche di tutte le altre bande che in quegli anni infestano le montagne di tutta la Sicilia. A guidarle sono uomini spietati, ma perfino qualche donna. In poco tempo, tuttavia, le forze dell'ordine riescono a sgominarle quasi tutte, tranne quella di Salvatore Giuliano. La banda di Giuliano controlla un vasto territorio intorno a Montelepre. È il suo regno. E tra quelle montagne, il re di Montelepre appare imprendibile. Imprendibile sulle montagne di Montelepre, Salvatore Giuliano e il suo braccio destro Gaspare Pisciotta rafforzano la banda e continuano la loro ascesa criminale. Intanto, nei latifondi dei grandi proprietari terrieri comincia uno scontro durissimo. Il governo vuole abolire la mezzadria, ma quando i contadini occupano le terre, i proprietari non ci stanno e pur di non rinunciare ai loro privilegi, sono disposti a usare il braccio armato della mafia. E lì, la zona intorno a Portella, soprattutto i piani degli albanesi, sono zone traversate da un'antica tradizione rossa di lotte per la terra. E quindi mafia e movimento contadino si pongono fin dai tempi dei fasci siciliani, cioè dalla fine dell'Ottocento, come due entità tra di loro contrapposte. Ci furono grandi partecipazioni di contadini, di donne, di ragazzi, di preti, con le bandiere rosse, con le bandiere bianche, cioè fu un movimento di popolo straordinario, con scontri molto duri, violenti. 16 settembre 1944, la mafia è sfidata a viso aperto. Compagni, da oggi il contadino siciliano... È durante un comizio che Girolamo Li Causi, segretario del Partito Comunista in Sicilia, per la prima volta parla ai contadini dei loro diritti. E lo fa alla presenza del capo della mafia di allora, Calogero Vizzini. Io nel 1944 accompagnai Li Causi a Villalba per fare un comizio dove non si poteva parlare perché c'era Calogero Vizzini. E per la prima volta la mafia sparò. È ferita la gamba! Montarono le bombe, spararono con le pistole. Li Causi fu ferito a un ginocchio e restò claudicante per tutta la vita. Contro i comizi e la manifestazione del movimento contadino, La mafia non usa mezze misure. Quella protesta va stroncata e tra le vittime si contano decine di sindacalisti e contadini. Ma quelle sono anche le terre in cui si muove la banda di Salvatore Giuliano, e quella è la sua gente. Gente che guarda lui con la speranza di un riscatto. Infatti, agli occhi di molti, Giuliano in quegli anni assume il ruolo di un giustiziere, un nemico dei ricchi che protegge i poveri. E così nasce il suo mito, ne parlano Emanuele Macaluso, ex dirigente del PC, il nipote di Giuliano, Giuseppe Sciortino, e Giovanni Battista Russo, nipote di Angelo Russo. La fama di un bandito Giuliano giustiziere, nemico dei superbi e protettore degli umili, dilaga rapidamente. Molti siciliani, non avendo nient'altro in cui credere, guardano a lui con speranze. Per loro egli incarna lo spirito ribelle dell'isola. Lo consideravano una vittima prima, perché lui aveva fatto mercato nero di pochi chili, diciamo così, di grano, mentre c'erano grandi trallazzature, e quindi consideravano, diciamo così, il tentativo, il conflitto a fuoco, ci fu il tentativo d'arresto, eccetera, in quella lo consideravano un abuso, come dire, ve la pigliate col povero, ve la pigliate con... E lui usò questa leva, diciamo così, il fatto che lo Stato è stato sempre uno Stato lontano. Lo Stato era considerato in Sicilia, per fare il soldato, il carabiniere che deve reprimere, l'agente delle tasse che deve pagare le tasse, questo era lo Stato. Lui stava con la gente e la gente stava con lui. Perché quando c'era un problema e si rivolgeva a Giuliano il problema glielo risolveva. Dice, mi hanno rubato le vacche, mi hanno fatto questo, mi hanno ammazzato gli animali, mi hanno scassato la casa. Cioè Giuliano era presente e risolveva il problema. Quindi c'è un mito, e in quella zona il mito significa qualche cosa, cioè significa che quest'uomo è in grado di sfidare lo Stato da un canto, e dall'altro canto è un uomo il quale pensa al popolo. Salvatore Giuliano è diventato un capo carismatico. Come simbolo della sua potenza fa dipingere un leone sulla sua casa natale di Montelebre. Ma i suoi uomini non hanno nulla di eroico. Molti di loro restano solo dei poveri contadini che cercano un modo per sopravvivere. Quelli, a mio giudizio, che hanno capitato in questa benedetta o maledetta banda, ci sono andate perché? Per motivi di fame. Si sono arrollate, non ci sono andate perché volevano fare questo discorso, volevano fare i banditi. Come molti picciotti, a Montelepre anche Angelo Russo, detto Angelinazzu, si arruola nella banda per sfamare la propria famiglia. Mentre andavamo in campagna abbiamo visto mio zio che veniva verso il cimitero da Palermo, e allora l'ha avvicinato, si salutarono con mio padre, si salutò con me. Ma muori, il lavandere era tutto squartareato e ora sei vestito bene. Il meschino si è confessato. Ha detto che un padre, che vuoi, aveva un'anima, cioè, mi ricordo, e l'ho data al diavolo. Mio padre, buon'anima, ci ha detto, è un frate, vuoi un consiglio mio? Arretirati, se ti puoi ritirare, perché dopo sono lui questi. Stanno a gettare una cocca e barnone e ti ammazzano, o vai a finire in carcere per sempre. E questo è il destino per la maggior parte dei banditi. Per i picciotti di Montelepre non sembrano esserci alternative. I banditi devono mantenere le proprie famiglie. La vita nell'illegalità è dispendiosa. I cavalli, le armi, le munizioni costano. Per finanziarla, l'attività più redditizia è il sequestro di persona. I sequestri diventano l'attività più frequente e più redditizia della banda Giuliano. All'interno della banda ci si specializza. C'è chi si occupa del rapimento vero e proprio, chi fa il vivandiere, chi intanto prosegue le rapine, chi deve assumere il ruolo di boia. Ma le scorrerie della banda si intrecciano con un profondo malessere della Sicilia. Nell'isola si diffonde sempre di più l'idea di una Sicilia sovrana e separata dall'Italia. e la grande ascesa del MIS, il Movimento per l'Indipendenza della Sicilia. Ancora Emanuele Macaluso e lo storico Salvatore Lupo. All'indomani dello sbarco alleato nell'isola si sviluppa il MIS, Movimento per l'Indipendenza della Sicilia, che propone addirittura di annettere la Sicilia agli Stati Uniti d'America come 49esimo Stato. Il movimento attribuisce all'Italia l'arretratezza, la miseria e tutti i mali della Sicilia, ma il suo vero obiettivo in realtà è lasciare immutate le secolari condizioni sociali dell'isola. Un forte movimento separatista che fu sollecitato e anche organizzato dagli agrari, fu sostenuto dalla mafia, ebbe come guida politica Andrea Finocchiaro Aprile. Bisogna capire che per quanto l'esistenza di un movimento separatista, MIS, Movimento per l'Indipendenza della Sicilia, sia molto, in qualche modo, desti la nostra attenzione, la nostra fantasia, è vero anche che il movimento separatista ebbe un brevissimo periodo di fortuna. Settembre 1945. Il governo di unità nazionale ordina l'arresto di Finocchiaro Aprile. Quando i separatisti si guardarono intorno per cercare qualcuno da usare appunto come elemento di ricatto violento sulle nascenti istituzioni, fu logico che si rivolgessero a Giuliano. E Giuliano divenne colonnello, fu nominato pomposamente colonnello dell'Avis, e quindi sostanzialmente i suoi interlocutori politici furono questi separatisti. Per Giuliano questa è un'occasione da non perdere. Ormai la sua attività criminale non ha futuro. Nell'Avis Giuliano vede la possibilità del suo riscatto e dell'impunità per i crimini commessi. Nel quartier generale di Giuliano a Sagana, a pochi chilometri da Montelepre, alcuni separatisti si recano dal bandito per offrirgli il grado di colonnello, la bandiera di combattimento dell'Avis e la promessa di amnistia a vittoria separatista avvenuta. Dal dicembre 1945 al febbraio 1946, la banda Giuliano inizia una serie di attentati contro le caserme dei carabinieri. Le vittime saranno decine. Se ci sono state perdite di carabinieri, è stato semplicemente nella lotta del separatismo, perché giustamente è stata una guerra. Anche da parte di mio fratello ci sono state perdite di uomini. Quindi lei mi insegna che quando c'è una guerra le perdite sono da una parte e l'altra, ma sempre a scopo politico. Salvatore Giuliano non è più un bandito comune, è una sorta di terrorista ante littera, un guerrigliero che agisce sotto la bandiera politica del separatismo. Il suo compito è seminare terrore tra le forze dell'ordine e il suo bersaglio privilegiato diventano i carabinieri. Per lo Stato però Giuliano e la sua banda continuano ad essere soltanto dei criminali comuni e dunque a loro non si può applicare l'amnistia di Togliatti. Intanto le cose in Italia cambiano rapidamente. Il 4 gennaio del 47 il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi va in America per un incontro col presidente Truman. Il 1947 inizia con il viaggio di De Gasperi in America, un viaggio che a tutti appare fondamentale. De Gasperi riceve un assegno per la ricostruzione dell'Italia, in cambio si impegna a combattere il comunismo. Qualche mese dopo, De Gasperi forma un nuovo governo. Per la prima volta dalla liberazione ne sono esclusi comunisti e socialisti. Ma il 20 aprile 1947 in Sicilia, il blocco del popolo formato da comunisti e socialisti vince a sorpresa le elezioni regionali. La vittoria della sinistra in Sicilia costringe la Democrazia Cristiana ad allearsi con la destra monarchica, qualunquista e separatista. E qui c'è probabilmente un primo indizio per capire meglio la strage di Portella della Ginestra. Ancora una volta, infatti, la storia politica della Sicilia si incrocia con la vicenda della banda Giuliano. Gli stessi che prima lo avevano assoldato nella causa separatista, adesso lo assoldano nella lotta contro il comunismo. Per questa nuova battaglia c'è bisogno di un'azione dimostrativa e l'occasione si presenta 10 giorni dopo la vittoria del blocco popolare, è il 1 maggio del 1947. Ogni anno venivano qui tutti i lavoratori di Piana, San Giuseppe, San Cipirello a festeggiare questo 1 maggio. Io allora al 1947 avevo 22 anni, era sempre assieme, diciamo così, ai nostri dirigenti, alle nostre bandiere, e siamo venuti qua per festeggiare sempre come queste tradizioni che festeggiavano. Mi ricordo che la sera prima, giorni prima di quella giornata, andavamo in giro per raccogliere pane, vino e qualche altra cosa, perché quelli che arrivavano qua dovevano mangiare, non dovevano andare a piana digiuno. Arrivando qua tutti dovevamo mangiare qualche cosa. Compagni, amici lavoratori, ogni primo maggio! Mentre che parlava l'oratore ha detto le prime frasi che mi ricordo, compagni e compagni lavoratori del braccio e della mente, oggi siamo qui per festeggiare questo primo maggio. Questa è stata una grande prima vittoria per questa vergogna dell'oratorismo, perché a causa della nostra ignoranza noi siamo soggetti. Ha cominciato a sparare, ma noi non è che sapevamo che stavano sparando, noi sapevamo che era una festa. Verso le 10:30 è stata la strage. Imparino a mettere! E incominciavo a scappare. Scappare, io invece di scappare verso giù, sono scappato verso qua perché avevo mio padre che era un dirigente, l'ho visto che era sopra la pietra. Quindi correvo per mio padre, ma non l'ho visto più, in quei attimi già non l'ho visto più nessuno. Mi giro, come mi giro, lì trovo due donne a terra, però non l'ho visto, non sapevo se erano morte o vive, perché poi ho saputo che una era morta, l'altra era ferita, che erano madre e figlia. Una madre che si chiama Sarafina Piazza, che ci hanno ammazzato il figlio, e scendeva durante il tragitto di qua a Piana con il figlio morto nelle braccia come la Madonna. Là c'erano quelli che sparavano, io li vedevo, erano in cinque, quelli che vedevo io erano in cinque, perché guardando di qua poi ho visto mio padre che era cacciato nella scarpata della strada lì. E continuavano ancora a sparare, si vedeva le pallottole che arrivavano là vicino, che c'era un po' di polvere. Dopodiché, quando hanno finito di sparare, siamo messi a correre verso giù e lì c'erano dei feriti, tanti feriti. Stavamo facendo una festa del lavoro, una festa che per 20 anni è stata cancellata. Questo stavamo facendo solo una festa. E in questa festa ci hanno sparato. Doveva essere una festa, invece si è trasformata in una tragedia. Sul terreno rimangono 12 morti e più di 30 feriti, molti dei quali donne e bambini. Ma chi erano i 5 uomini che il testimone ha visto sparare dall'alto della collina? Con il racconto della strage di Portella della Ginestra e di Salvatore Giuliano continuiamo dopo la pubblicità. Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24, stiamo raccontando la strage di Portella della Ginestra, il primo maggio del 47. A sparare sono stati certamente gli uomini di Salvatore Giuliano e 2 giorni dopo la strage il ministro dell'interno Mario Scelba rilascia la prima dichiarazione ufficiale. Adesso il nemico numero uno è lui, Salvatore Giuliano, un bandito ben protetto dalla sua gente e nascosto tra le montagne che nessuno sembra in grado di trovare. Eppure, a una sola settimana dalla strage, un giornalista americano beffa le forze dell'ordine e riesce a incontrarlo. Il suo nome è Mike Stern. Leggeva il messaggero e c'era un articolo su un bandito. Non aveva nessuna idea di che cosa era vero nel messaggero. Stern decide di partire. Arrivato a Palermo l'8 maggio 1947, si reca subito in questura. E ho visto tutto il fascicolo Giuliano. E mi hanno detto che lui era espatriato in Francia. Poi sono andato a Montelepre. nessuno. Io chiedevo in quale casa vive Giuliano. Mai sentito. Nessuno sapeva niente. Ma un uomo sui 60, di piccola statura e tarchiato, si presenta a Mike Stern. E questo era il padre di Giuliano. Poco dopo sono tutti nella casa della famiglia di Salvatore Giuliano. Era una giornata calda di morire e mi hanno servito la pasta. Durante quel pranzo Stern riesce a conquistare la fiducia della famiglia Giuliano. Poi mi hanno brindata e qualcuno si è messo a guidare il mio jeep e non so dove andavamo, ma Giuliano era qualche parte, forse 10 minuti, 15 minuti distante dalla casa in Montelepre. Era un bel uomo e l'impressione mia era se lui non aveva il primo incidente dove è stato ferito, tutto aveva cambiato in sua vita. Lui, il suo sogno era di lavorare per Tetti, per la società telefonica. Stern viene conquistato dalla personalità di Giuliano. Lo affascina il suo senso di ribellione verso la società ingiusta, scrive il giornalista. Turiddu Giuliano uccide, ma se non uccidesse, sarebbe la persona migliore di questo mondo. Io l'ho descritto un Robin Hood che rubava dai ricchi per dare al suo povero mamma. Questa era la descrizione. Il suo mente non andava fuori di questa. Durante una pausa, Stern osserva Giuliano scrivere una lettera. Lui aveva in tasca una lettera che lui ha scritto a Truman. E allora io volevo impossessarmi della lettera. Nella lettera a Truman, Giuliano afferma di voler combattere contro il comunismo. Caro Presidente Truman, la cosa di cui abbisogniamo è anzitutto il vostro grandioso e potente appoggio morale. Allora io ho detto a Giuliano, guarda, il nostro Presidente non legge inglese, non legge italiano. Allora lascia a me, lo traduco. Mi ha dato un foglio dove lui ha fatto il disegno che lui sta rompendo la catena che tiene la sigilla attaccata alla taglia e un cordone che lui sta tirando la sigilla verso l'America. L'ultima cosa che gli americani volevano è di avere sigilla fra i piedi. Ma era sua idea. Come si può discutere questa? Avete parlato anche di Portella della Ginestra? Non ho mai sentito la parola Porta della Ginestra. Quindi Stern dice di non aver chiesto a Giuliano di quella strage avvenuta solo 7 giorni prima, anche se tutti parlano della responsabilità di Giuliano in quel massacro. Stern, dopo l'incontro col bandito, lascia la Sicilia, torna a Roma dove comincia a scrivere il suo articolo. In Sicilia intanto Giuliano continua a seminare il terrore tra i comunisti dell'isola. Questa volta il suo obiettivo sono le sezioni del PC. Poche settimane dopo, nella notte tra il 22 e il 23 giugno, la banda ricomincia a sparare. Questa volta contro le sezioni comuniste e le camere del lavoro di Partinico, Cinisi, San Giuseppe Iato, Borsetto, Monreale. Ci sono 2 morti e decine di feriti. Siamo alla fine del giugno del 47. La polizia riesce finalmente a trovare un uomo della banda Giuliano, ma nel conflitto a fuoco il bandito viene ucciso. In tasca i poliziotti trovano una lettera scritta proprio da Giuliano. Il destinatario di questa lettera è il giornalista Mike Stern. Signor Stern, con i migliori auguri lo saluto caramente. Prego, se gli è possibile, fargli avere codesta al comando americano. La ringrazio infinitamente, Giuliano. Io non ho mai ricevuto le lettere. Io non ho comunicato con lui. Egregi signori, non credete che sia quel bandito che il governo italiano naturalmente dovrà chiamarmi. E mi credete tali di poter lottare anch'io quei vili rossi. Paese Sera la pubblicava per prima. Ho fatto causa contro Paese Sera e ho vinto la causa. Se qualcuno di voi venite, vi prego non venire in divisa ma vestiti in borghesi. Anche per maggior sicurezza vi farete accompagnare dallo stesso Stern. Guarda, invece i giornalisti della sinistra facevano un altro ragionamento. I polizia, tutti noi bravi, cercavamo Giuliano e un straniero viene e va. Quindi deve essere un spione americano. Se no, come arriva? Stern dichiara di aver fatto solo il suo lavoro di giornalista, ma restano alcune domande. Perché il bandito Giuliano scrive una lettera indirizzata al presidio americano utilizzando Stern come mediatore? E il giornalista era consapevole o no di questo ruolo? E ancora, che cosa c'entrano gli americani con le vicende del bandito Giuliano? Sullo sfondo rimane la strage di Portella della Ginestra, un mistero, dove si intrecciano la mafia, la delinquenza comune e soprattutto i legami inconfessabili tra il banditismo e il potere. Ascoltiamo ancora Emanuele Macaluso e Salvatore Lupo. Il primo bandito a morire è Salvatore Ferreri, detto Fra Diavolo, informatore del capo della polizia, Ettore Messana. Perché Fra Diavolo, che aveva la tessera, aveva un tesserino di un lasciapassare della polizia, non informò, o informò, io penso che informò il capo della polizia, e il quale tacque e la strage fu consumata lo stesso? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è questa, che dopo Messana, il governo scelba manda in Sicilia un altro ispettore che si chiama Verdiani, il quale aveva un rapporto con tali rapporti con Giuliano, che un giorno di Natale andarono a mangiare insieme a Marsala e mangiarono e divisero il panettone insieme. Alcuni esponenti delle forze di polizia, anche elevati, erano profondamente inquinati da contatti, scambi di favori con i gruppi briganteschi, e quindi una decisa azione investigativa avrebbe anche svelato, ex post, queste complicità. Dopo la strage di Portella della Ginestra, questi rapporti diventano scomodi. 27 giugno 1947. Il bandito Salvatore Ferreri, informatore della polizia, viene ucciso dai carabinieri insieme a suo padre Vito, suo zio Antonino Coraci e ai suoi compari Giuseppe e Fedele Pianello. Quindi noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui gli apparati dello Stato, quelli che erano addetti alla repressione, mentre Giuliano uccideva carabinieri, gli altri uomini dell'apparato dello Stato trafficavano con Giuliano, pensando che Giuliano poteva essere un braccio da utilizzare eventualmente per bloccare e braccare i comunisti. In questo intreccio oscuro Giuliano e il resto della banda continuano a essere imprendibili. I giornali che parlano di lui riportano le voci più diverse. C'è chi dice che è espatriato, chi sostiene che Giuliano continua a nascondersi tra le montagne di Montelepre, chi infine dice che è stato ucciso. Di Giuliano comunque non c'è traccia. Poi però il 20 settembre del 47 è lo stesso bandito che decide di rompere il silenzio. Salvatore Giuliano scrive una lettera al direttore del quotidiano La Voce della Sicilia, al comunista Girolamo Li Causi. Signor direttore, seguendo le ulteriori vicende delle ultime notizie dei giornali, un socchetto di delirio mi sorprende come il mio nome è cascato nelle spuderate bocche di tutti questi signori e signoroni. Se la mia domanda inconci un sentimento ragionevole, voglio chiedere come mai un Giuliano, amatore dei poveri e nemico dei ricchi, può andare contro la massa operaia. È il periodo di maggiore notorietà per il bandito. Giuliano è vanitoso e si lascia intervistare da qualunque giornalista lo vada a cercare tra le montagne e attorno a Montelegre. Novembre 1948, la giornalista Maria Ciliacus riesce a raggiungere Salvatore Giuliano tra le montagne. Il bandito finisce, dicono, con l'innamorarsi di lei e lei lo descriverà in una serie di articoli come un romantico pensatore, uno che fa giustizia delle bieche guardie del tiranno. Dopo quell'incontro, la giornalista viene interrogata, ma si rifiuta di fornire particolari utili alle indagini. Per questo viene arrestata e sconterà 4 mesi di carcere. Poi è la volta di 3 giornalisti italiani, Jacopo Rizza, Ivo Meldolesi e Italo D'Ambrosio, che realizzano per la rivista Oggi forse il più straordinario servizio giornalistico mai fatto su un fuorilegge ancora in libertà. Scattando centinaia di foto. E girando addirittura un filmino con Giuliano primo attore e Pisciotta che gli fa da spalla. Il senatore comunista Licausi, direttore del quotidiano La Voce della Sicilia, risponde dal suo giornale alla lettera di Salvatore Giuliano indicando al bandito la via della redenzione morale, la confessione. Tu sei perduto, la tua vita è finita. Sarai ucciso a tradimento dalla mafia che oggi mostra di proteggerti o in conflitto dalla polizia. Denuncia alto e forte con tutti i particolari chi ha armato la tua mano, tutti coloro che ti hanno indotto al delitto, che ora ti abbandonano e ti tradiscono. Girolamo Licausi. Disse a Giuliano, consegnati altrimenti sarai ucciso. Stai attento, gli disse. Vieni e dici come confessa. Dici tutta la verità su Portella, dici tutto quello che è stato fatto, perché se non lo dici, se non ti apri, sarai ucciso, ti uccideranno. Con il racconto della storia di Salvatore Giuliano e della strage di Portella della Ginestra, proseguiamo dopo la viabilità. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta... Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24. Stiamo raccontando di Salvatore Giuliano e di Portella della Ginestra. Il bandito ha scritto al senatore comunista Licausi una lettera in cui si dichiara innocente della strage. Dalle pagine del suo giornale La Voce della Sicilia, Licausi gli risponde consigliandogli la confessione o la sua sorte sarà segnata. È una facile profezia. Per Giuliano e la sua banda è cominciata la parabola discendente. I banditi sono sempre più isolati e braccati dalle forze dell'ordine, ma il vero pericolo è tra quella stessa gente che fino a quel momento li ha nascosti e favoriti. Il tradimento si annida tra i muri di ogni casa, si apposta negli angoli di ogni strada. I banditi conoscono il loro nemico, ma non hanno scelta. Sanno che un giorno o l'altro finiranno come tanti altri, magari crivellati di colpi in fondo a un pozzo. Nel frattempo, continuano a fare quello che hanno sempre fatto. Qui, a Bellolampo, nel suo triangolo, il 19 agosto 1949 Giuliano compie la più spavalda delle imprese contro i carabinieri. La caserma è assediata, la strada minata. Uno dei camion di rinforzi inviato dal comando salta in aria con un carico di 7 morti. Nella cattedrale di Palermo l'omaggio ai caduti nella lotta contro il banditismo è un rito che si ripete in quegli anni con tragica frequenza. Alla fine, tra i carabinieri si conteranno 87 vittime. Pochi giorni dopo l'eccidio di Bellolampo, il governo decide la soppressione dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza in Sicilia e crea il CFRB, Corpo Forze Repressione Banditismo, affidato al comando del colonnello dei carabinieri Ugo Luca. Nella rete del colonnello Ugo Luca cadono altri banditi e chi non viene ucciso viene arrestato. Ma la vittoria non sarà completa fino a quando il capo della banda Salvatore Giuliano e il suo luogotenente Gaspare Pisciotta saranno ancora liberi e per loro, del resto, la fine è vicina. Dopo la schiacciante vittoria della Democrazia Cristiana alle elezioni del 18 aprile del 48, i comunisti fanno meno paura. Giuliano adesso non serve più. Alle 3.30 di questa notte, in seguito ad un violento conflitto a fuoco, sostenuto con forze del CFRB, in territorio di Castelvetrano è stato ucciso il bandito Salvatore Giuliano. Dall'obitorio del cimitero viene portata fuori la salma. Giuliano aveva 28 anni. Sulla sua faccia, di cui è stato preso il calco, non si leggono quasi più i segni di un destino sinistro. Eppure è lui. Il dito del professor Del Carpio indica le cicatrici sul fianco che ne accertano l'identità. L'inizio della sua sciagurata carriera risale al 2 settembre 1943, quando, fermato mentre trasportava grano per la Borsa Nera, uccise il carabiniere Mancini. La madre, Maria Lombardo, dapprima non ha voluto credere. Adesso l'ha visto sul tavolo di marmo. Quella notte Giuliano indossava una canottiera di lana bianca, sandali nuovi di cuoio con suole di gomma. Ma al dito portava il famoso anello di brillanti e alla cintura la pesante fibbia d'oro cesellato. Aveva con sé il proprio arsenale, il binocolo che puntò sulle vittime, le armi con cui commise i circa 300 delitti che gli avevano valso più di 90 mandati di cattura. Il Corriere della Sera titola: quattro carabinieri nel cuore della notte affrontano e uccidono Giuliano dopo mezz'ora di fuoco. De Gasperi e Scelba si complimentano con il colonnello Luca, che verrà promosso generale. A 10 giorni dalla morte di Salvatore Giuliano, il settimanale L'Europeo pubblica un articolo di Tommaso Besozzi dal titolo «Di sicuro c'è solo che è morto», demolendo così la versione ufficiale dei carabinieri. Besozzi parla con la gente, batte le campagne, interroga i testimoni. Troppi particolari non tornano. Chi è stato a tradirlo? Dove è stato ucciso? Come e quando? La grande maggioranza dei siciliani non crede alla versione ufficiale del conflitto nel quale ha trovato la morte Salvatore Giuliano. Vengono pubblicate anche le foto di un rullino trovato in tasca al bandito il giorno della sua morte. Posa a bandito gentiluomo. Una settimana dopo, un nuovo articolo svela la verità sulla morte del bandito. Giuliano non sarebbe stato ucciso in una trappola della polizia, ma tradito e assassinato dal suo luogotenente. La morte del bandito Giuliano avviene mentre nel tribunale di Viterbo è in corso il dibattimento di primo grado per i fatti di Portella della Ginestra. Iniziato nel giugno del 1950, il processo si conclude nel 1952, dopo 217 udienze. Gli imputati sono 31, divisi in due gabbie diverse. Una per i picciotti, una per i veri componenti della banda. I primi vengono assolti per aver commesso la strage in stato di soggezione, gli altri vengono condannati all'ergastolo. Gaspare Pisciotta verrà arrestato a processo già iniziato. Oltre a confessarsi responsabile della morte di Giuliano, Pisciotta rilascerà una serie di dichiarazioni e accuse contro la politica e le forze dell'ordine, secondo lui corresponsabili di connivenze con il banditismo. Gaspare Pisciotta, vi rendete conto di quello che state dicendo? Ho detto di aver agito in collaborazione con il colonnello dei carabinieri e prima ancora con la polizia, che mi rilascia una tessera di libera circolazione! Picchiarino ci dice la tessera di Faraci Giuseppe. E camminava con la tessera. È un susseguirsi di accuse reciproche. Vengono fatti i nomi di personaggi politici di rilievo nazionale, quali Scelba, Mattarella, di monarchici come Cosumano Geloso e Aliata. Tutte quante noi servimmo con lealtà e disinteresse i separatisti e i monarchici. Idi a Roma con le loro cariche, mentre a noi ci hanno ammanettato e scaricato in galera. Ritenendosi tradito dai suoi amici, dopo la sentenza, Pisciotta decide di parlare. È lui che per anni è stato l'alter ego di Salvatore Giuliano. Ha di sicuro molte cose da dire. Tutte fummo confidente, tutte! Banditi, polizia e mafia erano tutte la genità! L'uso che la mafia fece anche del banditismo e l'intreccio con la politica e l'intreccio con gli apparati era, diciamo così, la metafora di una storia. Ormai dopo la condanna all'ergastolo, Gaspare Pisciotta non ha più nulla da perdere, almeno così crede. Ma non finisce così. Si dovrà fare un giorno un altro processo, quello per la morte di Salvatore Giuliano, e allora dirò tutto quello che non ho detto qui. Poi dice, ce lo dico io che fu, quando riuscì la causa a marzo a Palermo. A febbraio fu terrorito. Io non ce l'avevo a dire. Io non sono niente assata o che avevo a parlare da. Forse che l'aveva ritto, non c'era niente da fare. Era 30 mg di strichnina, come si poteva fare lui questo io? Come aveva di stare vivo? In carcere avvelenano con una tazza di caffè Pisciotta, perfetto. È la diciamo così, è la storia della mafia questa. La storia della mafia con l'appoggio dello Stato. Esiste un mistero irrisolto materialmente nella definizione del mandante della strage, irrisolto materialmente ma secondo me piuttosto chiaro politicamente. Esiste invece un molto più complesso problema, come si dice in inglese, di cover up, cioè di copertura di responsabilità, che è successivo alla strage e che certamente coinvolge una gran quantità di diversi soggetti che sarà ben difficile poter mai definire. Improvvisa e misteriosa la morte di Gaspare Pisciotta nel carcere di Palermo. A Montelepre una mano pietosa ha scritto questo cartello che invoca la pietà degli uomini e di Dio per l'anima del bandito. Dopo l'ufficio funebre, la bara trasportata a braccia esce dalla chiesa. Rapido e appassionato un bacio del fratello. Tutto intorno il silenzio, l'omertà e forse la vendetta di Montelepre. Ora la salma del bandito prosegue senza scorta verso il Camposanto. Prima di morire voglio sapere chi è, voglio portare alla tomba, dice, sono stati quei là a sparare. Non si può dimenticare mai. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.